la versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, qua dallo studio A di Via Monterosa a Milano. Oscar Giannino vi saluta. Sapete, in attesa domani di quello che succede sul voto Berlusconi, siamo in attesa anche di conoscere l'emendamento del governo alla legge di stabilità, perché dopo 2 mesi la maggioranza non è riuscita a compiere il suo lavoro. Faccio un piccolo esempio per entrare al tema di oggi, che è un tema che riguarda la protesta di piccole imprese, artigiani, commercianti, professionisti, per la prima volta tutti insieme, però di un piccolo esempio di un provvedimento che c'è e annunciato quantomeno nella legge di stabilità e che studiato bene dice una cosa diversa da quella che sembra. Parliamo di quello che in apparenza è un prelievo alle banche, perché lo Stato si aspetta 1,5 miliardi di euro di gettito da che cosa? Dalla rivalutazione e quindi dalle plusvalenze che le banche effettuano delle quote che le banche detengono nella Banca d'Italia, banca privata in Banca d'Italia. Apparentemente è lo Stato che lo fa perché ha settato di entrate, ripeto, 1,5 miliardi. In cambio alle banche dà una rivalutazione del loro capitale. Ma in cambio, oltre a questo, c'è un altro particolare, di quelli appunto destinati a non piacere alle imprese, alle piccole imprese, a tutti noi contribuenti. Perché? Fino a oggi, i dividendi della Banca d'Italia, in piccolissima parte, poco più che simbolica, andavano alle banche private azioniste. Perché appunto il capitale della Banca d'Italia era rimasto fermo alla rivalutazione di quello del 1936, cioè a 156.000 euro. C'è una norma nello Statuto di Banca d'Italia, agli articoli 39 e 40, che dice che agli azionisti poteva andare solo non oltre ogni anno che il 10% del valore del capitale, cioè poche migliaia di euro. Praticamente le banche erano azioniste, ma non vedevano se non pochissime migliaia di euro. È ovvio che portando il capitale della Banca d'Italia per 1,5 miliardi di entrate sulla plusvalenza a circa 6-7 miliardi, voi capite che il 10% del dividendo annuale arriva fino a 600 miliardi ed ecco come le banche in 3 anni si vedono tramutato un prelievo attuale in un bel favore di maxi dividendi. Ecco, questo per fare un esempio di come le banche vengano tutelate più che colpite e di come invece poi i contribuenti, le piccole imprese eccetera non lo siano affatto. Allora, in presenza di tanti particolari come questi, domani c'è una manifestazione abbastanza senza precedenti, perché è una serrata. Prima che voi a casa mi diciate che la serrata è proibita per legge, la serrata, cioè la chiusura per protesta da parte delle imprese, ricordo a tutti che in effetti non è citata in Costituzione, come lo sciopero che è tutelato l'articolo 40, e il vecchio codice penale proibiva la serrata degli imprenditori, gli articoli 503, 504, 505, 506. Poi la Corte Costituzionale è intervenuta negli anni, ha riconosciuto all'impresa il diritto di serrata solo in presenza, quando ci sono dipendenti, di vicende contrattuali, allora in quel caso è riconosciuto il diritto, non è più una violazione penale, ma resta comunque una violazione del codice civile, cioè un'inadempienza contrattuale dell'impresa nei confronti dei lavoratori, e resta ancora penalmente rilevante il divieto di serrata per le imprese con dipendenti quando la serrata è contro la pubblica autorità o per fini politici, quindi le imprese con dipendenti non possono fare questo. Però la Corte Costituzionale a metà degli anni 70 riconobbe che la serrata attuata dai piccoli imprenditori senza dipendenti, che era illecita anch'essa fino al 75, non era più da considerare illegittima. Ecco, allora domani siamo in presenza, ed è rarissimo nella storia italiana, esattamente di un appello alla serrata, cioè una chiusura di 4 ore, da parte di un'associazione di imprese che in questi anni si è tirata fuori dal resto dell'associazionismo per battersi contro la crisi, per alzare la voce, per essere un po' meno, diciamo così, composta e trattenuta, più esplicita, dura e aspra di quanto fossero le grandi associazioni di impresa, come Confindustria, di cui è proprietaria questa radio, e sicuramente l'avrete vista in molte trasmissioni televisive essere presente rivelando la rabbia e la protesta di questi piccoli imprenditori. Ecco, si chiama Imprese che resistono, questa associazione di migliaia di imprese, e per domani ha lanciato l'idea di una serrata che è estesa anche alle partite IVA, agli microimprenditori, i commercianti, gli artigiani, e si propone 4 ore di astensione, di protesta generale, con un manifesto che dice: si avvisano i signori clienti che domani per 4 ore il bancomat di Stato, come si autodefiniscono, resterà chiuso. Ecco, abbiamo con noi il presidente di Imprese che resistono, Luca Peotta, grazie di essere con noi. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito. Ecco, e io a Luca Peotta chiedo innanzitutto come nasce questa decisione, che cosa vi aspettate, a che cosa è finalizzata, a che punto sta rispetto anche alla vita della vostra associazione combattiva in questi anni di crisi? Ma è un sentimento, innanzitutto nasce da un sentimento mio di non poco più di 3 settimane fa, quindi voglio dire un evento nato su Facebook, dove ho chiesto al mondo di Facebook di utilizzare Facebook nel modo corretto, quindi per aggregazione, per aggregarsi. Ho postato il commento di una prima serata, le cose sono piaciute e in pochissimo tempo ad oggi siamo arrivati circa 6.000 partecipanti. Però c'è da dire che non tutti coloro che faranno la serata domani saranno presenti su Facebook e quindi c'è un numero da moltiplicare quel numero per 3 come minimo, perché ognuno di noi bene o male a 3 imprenditori ha dato, diciamo, la notizia e quindi l'adesione c'è di sicuro, quindi parliamo di quasi 20.000 partite IVA, piuttosto che commercianti, piuttosto che liberi professionisti, eccetera eccetera, quindi voglio dire un numero consistente. Dicevo appunto che nasce da un mio sentimento, perché in questa fine anno mi sono accorto che a livello di fatturato personale, anche io una piccola impresa, e dal punto di vista così di lavoro è molto simile al 2009. Ora la cosa che mi fa arrabbiare di più è che il lavoro continua a non esserci e si millanta a destra e a sinistra la ripresa per il 2014. Quindi tutto questo avevo voglia di verificarlo, perché voglio dire, chi più della base in questo momento sa darti una risposta positiva o negativa su questa eventuale ripresa? E insomma, se la risposta è questa, cari signori, io temo che si stiano prendendo le lucciole per lanterne. Quindi la ripresa da che cosa? Oggi ho sondato un pochettino il terreno facendo base, si spera che riprenda velocemente, diciamo, la crisi economica, ma così non sarà, signori miei. Stiamo facendo base con 1.290, quasi 1.300 euro di uno stipendio, quindi mi domando come possa far ripartire la domanda del genere, la domanda interna, dove abbiamo uno stipendio base di 1.300 euro, il lavoratore spende di media 103 euro per le accise, 90 euro tassa luce e gas, 60 euro tasse governative, quindi bollo auto, monopoli, pratiche amministrative, 199 euro di IVA, quindi rimangono da spendere 790 euro circa. Quindi pensate che il 30% del denaro che entra nel circolo dell'economia reale, di quel famoso 1.300 netto busta paga, va soltanto il 30%, mentre il resto 70% va in tasse. E ancora, base 8 ore lavorative di un dipendente, cosa che io ho 6 dipendenti, 2 ore e 30 minuti pagano il netto spendibile, 5 ore e 30 minuti, orario di lavoro, pagano la spesa pubblica. Dunque, per concludere, la pressione fiscale in Italia è al 65,8%, la media europea è al 41%, la media mondiale è al 43,1%. Questi sono dati Banca Mondiale. Sì, sono sull'utile commerciale d'impresa, prima che ci dicano no, è 44, è la pressione fiscale generale. Quella sull'utile commerciale d'impresa è quella che ha appena detto Luca Peotta, con queste distanze di decine di punti di maggior aggravio in Italia. Pensate, sono 20 punti di aggravio rispetto al concorrente tedesco e sono, ohimè, 30 punti di aggravio rispetto a quello britannico, 40 rispetto a quello svizzero. Ecco, per capirci poi come bisogna si può stare sui mercati. Diceva. Quindi, voglio dire, a questo punto non possiamo che pensare che così non possiamo andare assolutamente avanti. Questa manifestazione la facciamo, chiamiamola manifestazione, sì, una manifestazione, una serrata, dove in taluni paesi, in taluni città si sono costituiti dei raggruppamenti, insomma, in altre città come Narni, insomma, si farà questo serpentone lento di autovetture, eccetera eccetera. Quindi abbiamo cercato di uscire fuori dalle nostre imprese, perché va bene resistere, ma il segnale che noi diamo, piccoli imprenditori, partite IVA, non li cito tutti, ma sono sempre tutti nel mio cuore, E dico, se noi non facciamo vedere la realtà al nostro padre di famiglia, al nostro papà che dice di essere padre di famiglia, noi dobbiamo cominciare a far vedere al nostro Stato come sta riducendo i suoi figli, o perlomeno come li ha ridotti. Sono risolutamente, per quello che può contare, cioè nulla, ma personalmente totalmente d'accordo con questa impostazione di Luca Peotta. Io credo che c'è un limite dell'associazionismo tradizionale d'impresa, è quello di non aver capito in questi anni che doveva scendere nelle piazze. Ecco, io più volte ho detto, quando ci saranno anche forme di autotutela nella dichiarazione di protesta fiscale, autotutela, perché a quel punto ci si espone a gravissime conseguenze, quando si arriverà anche a questo livello di massa, secondo me il segnale forse sarà percepito, ma fino a che le associazioni restano chiuse a fare rappresentanza, non c'è incontro politico, non c'è incontro con gli interlocutori che da solo in questi anni, a mia modestissima opinione, abbia ottenuto risultati in qualche misura paragonabili alla durezza di ciò che ha colpito il lavoro e di ciò che ha colpito la piccola impresa. La versione di Oscar. Eccoci, tornate in diretta. Io vi ricordo, per chi fosse interessato a scaricarci in podcast, sono tanti, ringrazio tutti, si vede dalle graduatorie, stiamo andando bene dal sito della radio, voi potete sentirci in podcast quando volete. Vi ricordo per le telefonate il numero verde 800 24 00 24, per gli sms 349 238 6666, ma dovreste saperlo come ascoltatore di Radio 24, questi sono i numeri per tutte le trasmissioni. Due risposte al volo a due ascoltatori. C'è Antonio da Como che ma perché non si parla dei forconi? Su questo io dico che mi documenterò ancora meglio, che ci dovrebbe essere una manifestazione nazionale per l'8 di dicembre, e se così dovesse essere, come facciamo con tutte le sigle delle diverse proteste, il 7 o il 6 al massimo ne parliamo a questi microfoni senza nessun problema. Un altro ascoltatore dice: Oscar, ma quello che hai detto per l'attribuzione di dividendi alle banche azioniste di Banca Italia, rivalutando il capitale, varrebbe anche per utili derivanti alla Banca d'Italia da operazioni sull'oro delle riserve? Risposta: secondo la legislazione attuale sì, certo, quindi a maggior ragione voi capite che se fino a questo momento abbiamo sempre giustamente avuto argomenti per dire anche a chi ce lo chiedeva, ma come, le banche azioniste sono private mentre la Banca d'Italia è di diritto pubblico, dicendo sì, ma sono limitate, limitatissime in quello che come azioniste possono fare, non influiscono sull'indipendenza della banca e sulle sue decisioni, però quando per effetto di questa rivalutazione del capitale avessero così tanti utili e dividendi come dalle norme attuali, l'articolo 39 e 40 dello statuto, e in più se dovessimo fare operazioni su loro ancora più ne avrebbero, capite bene che il 1,5 miliardi che lo Stato ci piglia di tassa sulle plusvalenze verrebbe più che ampiamente ripagato nella tasca delle banche. E non so se sia questa la vera priorità del paese, la mia opinione è ! Allora, torniamo con Luca Peotta, ma l'idea di estendere dalla piccola impresa, voi siete un'associazione nata con piccole imprese nella crisi, alle piccole partite IVA e quindi a tutto il popolo di chi scommette su se stessa, è un'idea in qualche misura un po' diversa dalla classica nozione della rappresentanza? Ma sì, cioè vogliamo dire la verità? Bene, qui il problema rispetto diciamo alle rappresentanze, si fa sempre molta fatica a diciamo andare a finire con i piedini all'interno di un'impresa che resistono come tante altre piccoli movimenti che si sono creati in questo momento. Il problema è la paternità, cioè la paternità dell'evento, lo voglio dire ma con molta tranquillità e molta serenità. Noi vorremmo che le associazioni di categoria, sentivo prima che commentava anche questa questione, dove è assolutamente necessario che tutti insieme facciamo qualche cosa di importante, se di associazioni di categoria, tra virgolette, il nostro sindacato è effettivamente vicino alle imprese. Quindi non capisco per quale motivo ci sia spesso e volentieri stata sollevata la questione che io prendo queste iniziative con imprese che resistono senza comunicare al resto del mondo associativo le mie iniziative. Beh, la semplicità è molto semplice, noi siamo molto rapidi, quindi nel diciamo, organizzare un evento del genere, ripeto, 3 settimane fa una frase postata su Facebook che ha avuto, diciamo, così tanto clamore, che ha riguardato tutto il territorio nazionale in pochissimi giorni, beh, immaginiamo una manifestazione di questo tipo organizzato dai grandi colossi associativi, ecco, quindi la velocità, la rapidità, anche il mondo delle partite IVA non è rappresentato. Certo. Ne abbiamo parlato qui in relazione proprio alla disciplina a cui sono sottoposti, all'aggravio di disciplina a cui sono sottoposti, sperando davvero che ci ascoltino e che non parti l'aumento automatico di oneri contributivi previsto per loro. Esatto, quindi voglio dire, da una parte mi dispiace perché io vorrei condividere tutto quanto con tutti, per l'amor del cielo, un imprenditore deve anche lavorare, deve pensare anche alla propria attività. Quindi voglio dire, perché chiariamolo, lei per la sua attività associativa non è né retribuito né niente eccetera, questo è ciò che avviene naturalmente fuori dalle grandi strutture associative che hanno il loro apparato. Qui stiamo parlando di una cosa totalmente volontaria, le imprese che resistono. Ancora una risposta a un ascoltatore che mi segnala la manifestazione grande della LIFE in Veneto il 9, benissimo, ne parleremo l'8, grazie a te che ce la segnali da Vittorio Veneto, ma invece un altro ascoltatore chiede a Luca Peotta, gli faccio una domanda, però ragionevolmente Peotta, da manifestazioni come queste che cosa poi uno può ricavare? Ma intanto l'ho detto prima, quindi bisogna ascoltare sempre tutto e bene. Intanto cominciamo a farci vedere e a dimostrare allo Stato come sta riducendo i propri figli. Questo è il primo punto importante. È chiaro che dietro a una protesta c'è anche una proposta, anzi, noi ne abbiamo messa a punto per questa cosa qua. 4 che sono l'immediatezza nel fare immediatamente qualche cosa perché riparta l'economia italiana. La dico brevemente. La prima è una operazione che non dobbiamo chiedere a nessuno, la dobbiamo fare all'interno del nostro paese, la dobbiamo fare la nostra politica subito, domani, non nel 2014 o nel primo semestre, subito. Io privato, se avessi oggi una possibilità di dimostrare allo Stato che ho speso 2.000 euro di IVA, quindi ho generato nel mio piccolo portafogli 10.000 euro qua, un pochettino di più di imponibile, ok? Se io raggiungo quell'obiettivo di 2.000 euro, questi sono numeri buttati a caso, alla fine dell'anno, quando mi si presenta il pagamento della dichiarazione dei redditi, io potrei avere uno sconto del 30%. Intanto lo Stato con questa semplicissima cosa qua, di durata breve, quindi al massimo un anno, non si perderebbe 3 miliardi e mezzo di euro di gettito proveniente dall'IVA. Secondo, darebbe un segnale positivo al paese che si sta cercando in tutti i modi di sollevare un pochettino la questione. Senta, molti ci chiedono, per capire meglio sia le altre proposte, perché ce ne sono altre 3, perché noi stiamo finendo il tempo, sia per capire come fare a partecipare, su che sito, dove possono trovare, informarsi in queste ore prima di domani? Semplice, sulla pagina Facebook, scritto per esteso, prima serrata nazionale delle partite IVA, abbiamo una locandina che è spettacolare, ci sono 2 formichine che sorreggono un cerchio con all'interno la bandiera italiana. Basta cliccare partecipo, bisogna interessarsi, ci sono i luoghi dove domani ci si troverà, abbiamo addirittura un post dove ci sono scritte le varie regioni, contattare su quelle regioni ovviamente le icone delle persone che hanno aderito in base a ogni regione. E naturalmente quindi, poi resta su Facebook anche il sito di imprese che resistono, quindi prima serrata delle partite IVA come sito e poi su Facebook anche quello di imprese che resistono. Renzo da Roma, purtroppo io ho finito il tempo, mi hanno detto che volevi sapere a Roma dove c'è la manifestazione, vai sul sito e leggi. Grazie a Luca Peotta, continuate su Radio 24, appuntamento con me a domani.